Falcone, il grande amico di Falcone. Chi si è? Ricordami il nome d'attivo. Gianni, sì. Ma Marco Condor, e allora, tutto bene? Ciao. Stavo cercando di canali il giorno dietro per chiederti una cosa riguardo una tua installazione. Certamente, vieni avanti, chiedi e ti sarà risposto. Allora, l'antenna LEM della... l'antenna Ringo della LEM, praticamente la Ringo LEM. Ultima, sì, versione la più cagata, perché obiettivamente è un'antenna che secondo me ti creerà sempre problemi, nel senso che è un'ottima antenna quando è nuova, poi inizi ad avere problemi di distaccamento dalla parte alta dalla parte bassa, che poi è interrotta da quella specie di anello di plastica, dai, quello che mi stai dicendo tu, a un certo punto si stacca, non so per quale motivo, il calore gli crea problemi. Basta che ci sia un po' di acqua, di umidità, e nel retro del TL femmina ti crea una cortocircuitatura per cui ti fa salire le stazionarie. Loro ci hanno messo quella specie di obrubio, di funghetto, di silicone, che non serve un tubo. Il cursore di cortocircuitatura sulle due spine dopo un po' si sposta, oppure si ossida e ti crea problemi allo stesso stazionario. Ti ripeto, è un'antenna che vale quello che costa. Se fai delle migliorie, riesci a tirarne fuori anche una buona antenna. Gianni doppio rumo, ci sei? Era sul 5, era sul 10. Ma io evidentemente sta ancora ceramizzando con gli amici della Sicilia. Perché dimmi, stai installando una Ringo? Scappa, io l'ho presa tempo fa, un anno fa da Fusaro. Ho fatto una prova con un palo sul terrazzo, un palo da un metro, un supporto per un reload, e avevo 1,5 sull'1 e 2 sul 40. Naturalmente scendendo di canale sull'1, le stazionarie scendeva. Quindi io immagino che alzandola migliori. Il problema, la cosa strana è che sul manuale c'è scritto metri 5 totale. E metri 5, però considerando quei 20 centimetri di massa che c'è sotto l'antenna, cioè quella che poi serve per sedare al palo. Quindi hai stazionarie nei canali bassi, cioè stazionarie basse nei canali bassi e stazionarie alte nei canali alti. Quindi di conseguenza l'antenna tende ad essere troppo lunga. Stava nota che era un metro da terra. Comunque ho modulato, ho segnato buoni segnali per come era messa, a un metro da terra. Diciamo con le spie, con la cortocircuitatura, regolandolo il cursore sulle spie, quindi non ci dovrebbero essere problemi, dai. Infatti poi quando a ottobre la si metterà, vedremo cosa succede. Come piano di massa cosa gli hai dato? Ma l'altra volta, allora un paletto di ferro da un metro e un porto a un pletone. Troppo poco. Troppo poco, non hai piano di massa, è per quello che ti faceva salire le stazionarie. Lì ne devi avere. Devi avere un bel po' di cose, di o gli fai un cavo, lo colleghi a un impianto idrico o un impianto del termosifone, però devi avere più massa, se no non fa. Comunque quando sarà piazzata metterò un palo da 4 metri, molto probabilmente si rientra bene il palo e si abbassa anche il logo di radiazione. Guarda, per abbassarlo, ti dico la verità, io avevo utilizzato l'espediente di comprare una quadrella di quelle RG Palo per mettergli i tiranti e l'avevo messa proprio nella parte bassa. bassa nella parte che della massa dell'antenna, e dopodiché gli avevo collegato quattro sui buchi dove andavano i tiranti per questa quadrella, cioè che veniva utilizzata per tirare come per controtirare i pali, e avevo messo quattro o tre radiali, che altro non erano che dei pezzi di alluminio che potevo comprare da Brincomen della lunghezza di 1,20 m cavi, e ci passava proprio un bullone da 4, mi sembrava, da 4 o da 6, e li ho serrati, e gli aveva proprio abbassato completamente le radiazioni dell'antenna. Però mi diceva su un forum che mettendo i radiali su un'antenna mezz'onda che non deve avere radiali, si formano dei lupi parassiti. Magari sì, si abbassa l'angolo di radiazione, però con questi lupi parassiti l'antenna si comporta un po' strano. E questo che non deve avere radiali non è esatto, non è esatto, e ti spiego perché. Io ho una mini Grand Play caricata, che non è una 5 ottavi, quindi, ma anche la stessa Grand Play non è una 5 ottavi, ma è una mezz'onda, eppure il radiale ce l'ha, anzi, è l'antenna per eccellenza che è il radiale. Yeah. comunque distanti, perché io sono all'ingresso di Sassari, quindi zona ingresso via d'Italia. Ah, ho capito, adesso sì, quel quotidiano. E l'antenna qual è? Quella lì? Ho negativo, questa qua è fra l'altro un'antenna che devo sistemare, perché voglio far superare un po' di palazzi dove le radiazioni sicuramente ha un po' di problemi. E questa qua è una Mantova Turbo. Sicuramente basta, perché con quell'antenna dovresti arrivare, anzi con questa antenna che dovresti arrivare come primo, come già. No, sì, infatti ha qualche problema, secondo me, qualche problema proprio di radiazione dovuto al fatto che si sbatte da qualche parte, non è libera, diciamo, dai. Infatti se la metto sul torino dell'ascensore adesso sicuramente otterrò qualche risultato in più, anche se volevo sostituirla e mettere una, ho comprato una Energy 5 ottavi che dovrebbe essere una bella, che è una vecchia BA27L, ed è una bella potente, e l'unica cosa non ci puoi caricare sopra più di tanto perché si scioglie. Molto, il primo modello che era quello in rame, quella era un'antenna ultime ne sono fatte di buccia di cipolla, non ti reggono le intemperie, dopo un paio d'anni la devi davvero buttare. Ripeto, 38 euro va benissimo, perché ti mette nella condizione di avere una mezz'onda, di modulare anche bene e di iniziare di poter modulare con una stazione spendendo un centinaio di euro tutto compreso, perché 38 euro d'antenna, un barattino la paghi una sessantina di euro, cavi 150 euro e stai, sei in onda. Quindi ti ripeto, vale quello che costa, però se gli fai una buona manutenzione, soprattutto gli dai un velo di vasellina, dovrebbe durare nel tempo. Vi lascio, buon proseguimento, ciao ciao. Thank you. quando, non mi trovo là, dal mio fratello a Reggio, con Reggio, poi tutta quanta direzione, che spera che chiudo 5 minuti e riprendo dopo quando scendo anche io, dai, ok, ciao Marco e ciao Antonio, ci sentiamo dopo, dai, qualifici per te. Lo so, l'ho già sentito. d'accordo vanno con l'amplificatore, che se quando vanno in accordo diventano micidiali, diventano, cioè se l'attacchi con un, cosa ne so, con un B300, l'attacchi con, anche con 747, intanto aumenta di brutto la radio, e poi spinge che cosa male, sono queste qua, sono fatte per farci sentire lontano. quest'anno o l'anno scorso? Via 400 canali, MSN, bande laterali, frequentime, poi ha un sacco di funzioni. Quello va bene per fare i DX in banda laterale, capito? Io sono 550 power invece. Il microfono è il suo. Questo è il microfono, è il suo originale. L'eco è dell'apparecchio, capito? Via, è buono, è buono. Adesso mi ascolto anche un attimino. Aspetta un attimo, prendo l'altro apparato. No, no, no. Non andare dietro, funziona bene, funziona, va benissimo, va. Sono soddisfatto di questo apparecchino, Sono veramente soddisfatto. Ora, 1, 2, 3, aspetta che passo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ora, ok, adesso va. Ora, 1, 2, 3. Buono, buono. E questo è da mettere a posto, c'ha le CCP che ho proprio. Però per il resto va bene. Come ho preso? Stavo ascoltando qua. Ok, dai, mamma mia, c'è un caldo qua, incredibile. Qua si fa benissimo invece, ma benissimo proprio, Scappa. Sono leggero, hai sentito quello là ieri? E chi? Quello più basso, quello che mi hai detto, cazzo che c'è un coso, come si chiama? Tu mi hai detto c'era il segnale più alto, però poi era tranno, era quello il più basso di modulazione, dai, è normale. Venus? Ah, no, quello non è il Venus, lo Zeus, il Venus ce l'ho, quello lo uso nella macchina. Ah, ecco, sì, anche quello hai, quanti paracignali con voi? Almeno ce l'uso nella macchina da lavoro, lo uso, neanche nella macchina nostra, nella macchina da lavoro, e già ne ho già, poi ti ho fatto sentire anche l'altro ieri sera, quello che fischiava, quello del microfono amplificato, come cazzo si chiama, Lele, e poi già ne ho qualcun altro, sono 87, c'è il Superstar, 3000 FM, e ne ho, c'ho Jackie Penny, c'ho, altro ne vuoi sapere, Ranger, Cappa, ma gli apparati più vecchi di chi erano, di tuo padre? No, sono di tutti e due gli apparecchi, hai capito? Dagli anni 80-90 mi è avanzato l'SM500S omologato per la roba, poi il Connex 4000, ecco che è questo, e poi altre cose che però sono rovinate, non si possono usare, sì. Invece di nuovo avevo preso questo 48XL usato, ma usato buono, Albrecht 5008, che vabbè, io preferisco questi classici. E poi la Fayette Ares, perché ho omologato, e mi serve per la concessione, tra virgolette, adesso si chiama licenza, autorizzazione, come la vuoi chiamare? E poi ho un portatile che è filiale, Intec. H520, praticamente non ha niente che invidiare a un baracchino normale, cioè un baracchino come quello che usiamo noi, hai capito? C'è i canali da sotto a sopra, processore di modulazione, c'è un pericolo. 40, ha la Taco PL e ce l'ho con la base magnetica. Sì, mi è già la conosco. Bella antenna. Thank you. sono i pesci morti a galla la lavoro. Forse inizia a pulmonare. Che ha allumato, cara. Ma se cazzo, lo prendo, lo fanno a bella, lo fanno. Lui con tutti i colori, lui basta, cioè fare un coso qua, per fare una statuetta a fare, e lo fa, manco fa un muro. Cioè, lì sempre, lo tirami, brutto bucaccione, cioè ne dicono tutti i colori. Manco si gira, manco si gira, guarda. Dobbiamo andare. se l'ho sentito non me lo ricordo più, e sono passati quegli anni. Ma quante volte hai entrato? Sento io. E allora tu? Sì. faccio un altro rimarco. Dobbiamo andare a prostitute. Non andiamo a cercarlo. Se non deve fare solo qualcuno che faccio venire a casa. Se ci sono 200 euro, c'è tutto molto con te. Non ci siamo messi, io mi poverina, cazzo, cioè fanno quel mestiere lì così in strada, non è tanto bello, quindi le dico poverina perché lo fanno per camparci, lo fanno, però cazzo, quando vengo qui chi ti beve da lì, chi ti può stimare di ripeto, mamma mia, che ci mette a fanno venire il vomito. Quando si deve in campagna che devo fare l'acqua, allora per dire c'era la luce e tutto, no? E facevo determinate in chi vi lasciavo il cane dentro in giro, quindi facevo il telesco, tutto per partita. Andavo lì vicino al capattino, c'era due ragazzi, si mettevano a battere, certo, se sentite due anni, aiuto, aiuto, mi fanno aiutare il cane. A culo la musica. Oh, gli hanno usato sotto, gli hanno usato. Ah, sotto la materiale, faccio così. Siamo d'acciaio. In questo cane, in questo cane, ma credo andate a papà per cambiare, le cose muri qui. Non è che ci vado in sì. Sì, per il mondo, si avvicina per in macchina, se lo vedo anche tutta la notte a volte, sì, ma quello che non sento che era quello che c'era in alto, in moto. Noi ci sentiamo, la prima volta che ho fatto, si faceva la prima volta, si faceva più giovane, la faccio così. Tutto quello che pagano per la quale ci vuole la benzina, la posizione di comprare i semi, la posizione.